La musica non si ferma, è un progetto che parte dal basso, da un'esigenza che si è fatta ogni giorno più forte, che è quella di abbattere quelle che sono le barriere venutesi a creare con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo tutti in questo momento, emergenza che si è fatta sempre più critica e stringente, direi. Noi ci siamo guardati un po' in faccia, quei ragazzi, sono in una band, facciamo musica rock, sono il rock, la band si chiama Il Rojo ed è di Morano Calabro, quindi siamo nel profondo sud, che è forse la regione ancora meno intaccata da questo problema, anche se le misure comunque ci hanno coinvolto come tutti gli italiani, quindi l'assunto di partenza, insomma. Guardandoci in faccia ci siamo detti: c'è tanta gente che in questo momento vede annullare eventi culturali, vede annullare i live. Noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle perché avevamo dei tour organizzati anche nel nord Italia. Di conseguenza ci siamo detti: facciamo in modo tale che chi è solo si senta meno solo, continuiamo nella nostra azione di promozione della musica underground in generale, perché non abbiamo solo questa band ma abbiamo anche un'associazione culturale qui a Morano che si preoccupa di dar voce, portare avanti eventi di musica tra virgolette di nicchia, quale quella inedita, purtroppo è la situazione italiana questa che impone questo stato, insomma, per quanto riguarda le band che ogni giorno si mettono in strada con il loro bagaglio tecnico, i loro averi e la loro passione. Di conseguenza è stata proprio quasi uno sfogo naturale per noi andare in questa direzione, ecco. Abbiamo deciso di creare su un network, abbiamo creato un sito, una pagina Facebook, Twitter, tutto quello che serve da supporto a questa cosa, e abbiamo cominciato a contattare una serie di band che conosciamo, amici di amici, poi amici di amici di amici. Questa cosa si è sparsa un po' a macchia d'olio ed eccoci qui, insomma, a raccontarci. Quindi lo strumento della rete si è rivelato fondamentale in questa occasione. Voi avete messo in piedi una vera e propria programmazione, giusto? Sì. Abbiamo messo in piedi una programmazione che è in corso d'opera per via delle varie restrizioni, è stata anche un po' modificata, perché in un primo momento quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di far radunare le band in privato a porte chiuse per fare dei live streaming veri e propri, creando così un palco virtuale e un pubblico condiviso, che è poi quello che è il nostro obiettivo anche a lungo termine, perché questa azione vuole essere un'azione di promozione che ci vede uniti adesso nella difficoltà, ma anche più avanti, insomma. In un primo momento abbiamo programmato dei live streaming, qualcuno si è fatto, altri per via dei decreti che sono stati sempre più stringenti sono stati posticipati a causa del fatto che non ci si può muovere se non per motivi assolutamente essenziali. In un primo momento ci siamo sentiti anche un po' piccati, tra virgolette, nel senso che in Italia purtroppo la musica viene vista come un hobby e non come un lavoro, di conseguenza magari si può andare a passeggiare il cane, si poteva andare a passeggiare il cane o andare a fare attività all'aperto, jogging, però magari questo spazio a chi la musica, insomma, la vive in maniera proprio carnale come noi, insomma, non ci è stato concesso. Poi chiaramente la situazione si è fatta più critica e ovviamente abbiamo deciso di spostare un po' il raggio d'azione in questo periodo e dare voce a chi, ai singoli, alle persone che hanno la facoltà di poter registrare, fare home recording e mandare, insomma, il frutto della loro passione. Abbiamo contattato anche dei maestri di musica, dei musicisti, maestri di canto, tecnici, fonici, e stiamo organizzando tutta una serie di percorsi didattici, formativi e anche di intrattenimento con persone che sono in grado di utilizzare i propri strumenti a casa in sicurezza. Insomma, vi state adattando anche alle disposizioni che si susseguono giorno dopo giorno. Sì. Dove possono andare le ascoltatrici e gli ascoltatori allora per seguire quello che avete già fatto e quello che ci sarà? Il nostro network è coordinato, quindi siamo presenti su tutti i media. La base, il punto di riferimento è il sito web www.lamusicanonsiferma.it, dove pubblichiamo di volta in volta aggiornamenti sulla programmazione, dove abbiamo istituito una sezione dove diamo istruzioni di primo livello, insomma, a chi è interessato ad aderire in maniera del tutto gratuita a questo movimento. Abbiamo creato anche dei video tutorial per poter permettere in condizione alle persone di poter fare anche delle registrazioni di livello, diciamo, di un buon livello, di livello semiprofessionale, in modo tale che chi vuole può aderire, e questa cosa è una cosa a beneficio di tutti: chi sta a casa, del musicista che può trovare finalmente un luogo in cui esprimersi. E ovviamente tutto ciò rimbalza sul media che abbiamo eletto a media principale, che è Facebook. Abbiamo la pagina Facebook, abbiamo creato degli eventi proprio lì, insomma, è un po' il fulcro, e da lì vengono smistati tutti i vari messaggi, però ovviamente siamo anche su altri media, Instagram, Twitter, YouTube, quindi chi vuole può andare sul nostro sito web dove sono linkati tutti i media, oppure sulla pagina Facebook La Musica Non Si Ferma. Quando la musica unisce le persone non ci sono davvero confini, e forse questo è il messaggio più profondo di La Musica Non Si Ferma.